GR24, il sole 24 ore. Nuova stoccata di Monti, la situazione sottovalutata per anni, ora più prudenza. Bene intanto l'asta dei bot e lo spread scende a 330 punti. Parte l'operazione espulsioni nel Movimento 5 Stelle, Grillo caccia Salsi e Favia, il PD sceglie la via delle parlamentari e si voterà per i candidati in lista. La Corea sfida il mondo, un satellite in orbita, condanna dalla comunità internazionale. Sciopero dei benzinai è serrata, adesione al 95%. Buongiorno dalla redazione, buona giornata da Anna Miglioratti. Durante il precedente governo delle riforme sono state fatte, ma lasciando moltissimo da fare. Per questo chiunque vincerà le elezioni dovrà cercare di dar seguito alle riforme. Parole poco fa del Premier Monti, che ormai pronto a lasciare, ha usato parole chiare parlando davanti alla platea dell'Anfia, con messaggi diretti anche oggi soprattutto a Berlusconi, ma sentiamo tutto da Alessandra Schepisi. Sì, buongiorno. No a giudizi frettolosi e semplificati. Il Premier Monti invoca maggiore prudenza nel valutare l'azione del suo governo e le riforme avviate. Così risponde, senza citarlo, a Silvio Berlusconi, che ieri lo aveva attaccato affermando che con lui l'economia era peggiorata. Il professore rivendica invece quanto fatto in un anno, affermando di aver consentito al paese un recupero di competitività, mentre il precedente governo aveva lasciato su questo moltissimo da fare. Sentiamo un passaggio. Qualcuno fa notare che gli effetti di questa azione di riforma stentano a vedersi, anzi che la situazione è peggiorata negli ultimi mesi e quindi le riforme non hanno funzionato. A mio avviso sarebbe auspicabile una maggiore prudenza nel dare questi giudizi, questo non perché gli eventuali destinatari dei giudizi, cioè il governo e i suoi membri, possano rammaricarsene in sé, ma perché le riforme hanno bisogno di tempo per dispiegare i propri benefici, mentre i costi ad esse associate, che sono purtroppo ineludibili, sono immediatamente percepibili. Ha il sapore di un bilancio di fine mandato quello di Monti all'assemblea annuale dell'Anfia. Il Premier dispensa anche consigli. Chiunque vincerà alle elezioni dovrà cercare di dar seguito alle riforme, perché interromperne il cammino prima di attuarle sarebbe peggio che non farle. Infine una sorta di appello a rimboccarsi tutti le maniche, perché tutti noi, dice Monti, siamo corresponsabili dell'andamento delle quotazioni, dell'immagine dell'Italia. A voi la linea. Grazie, così dunque le parole di Monti. Intanto questa mattina c'è stato già anche un giudizio dei mercati, perché c'è stata una nuova asta di titoli italiani. Valentina Furlanetto. Sì, buongiorno, come dicevi c'è stata un'asta di titoli a 12 mesi con un tasso in calo dell'1,4% minimo da marzo. Dall'1,7 di novembre sono stati piazzati 6,5 miliardi di euro offerti, quindi molto bene. Spread BTP sui minimi di seduta a un passo dai 330 punti, borse positive, FTSE MIBA più 0,31, FTSE Italia Share più 0,30%. Sul mercato milanese, fra i titoli a maggiore capitalizzazione, brilla Mediaset più 4,8, Impregilo più 2,5, Mediolanum più 1,5, fra i negativi Parmalat meno 1,04 e Pirelli meno 0,79%. Anche nel resto d'Europa la giornata è positiva, Francoforte più 0,23, intorno alla parità in realtà Parigi per tutta la mattinata, con Londra più 0,24. Le borse sono sostenute in generale dall'ottimismo con cui gli investitori guardano la riunione della Federal Reserve negli Stati Uniti, che potrebbe espandere ulteriormente le sue misure di stimolo economico. Euro sul dollaro 1,3026, ed è tutto. Grazie anche a Valentina Furlanetto. E ormai le manovre politiche sono da campagna elettorale. Nel Movimento 5 Stelle Grillo fa quelle che più volte aveva minacciato e caccia i dissidenti, mentre il PD lancia le liste aperte. Il 29 e 30 dicembre, se le elezioni come pare saranno il 17 febbraio, il Partito Democratico farà le primarie per scegliere i parlamentari. La decisione è stata presa questa mattina in un incontro terminato da poco tra il segretario Bersani e i segretari regionali. Lunedì verranno definiti i particolari della consultazione. Parlamentare concluse, invece, dicevamo, è tempo di resa dei conti nel movimento di Grillo. Sono forse i volti più noti della fronda interna. I due esponenti del Movimento 5 Stelle cacciati oggi da Beppe Grillo sono Federica Salsi, consigliera comunale di Bologna, e Giovanni Favia, consigliere regionale in Emilia-Romagna. Quest'ultimo era diventato famoso per un suo fuori onda su Casaleggio, trasmesso poi da Piazza Pulita. La Salsi invece per le polemiche seguite ad una sua partecipazione a Ballarò. Entrambi si erano lamentati per la scarsa democrazia interna. Con un messaggio sul suo blog, Grillo oggi ha fatto sapere che ai due è stato ritirato l'utilizzo del logo del movimento. Li prego di astenersi per il futuro a qualificare la loro azione politica con riferimento al Movimento 5 Stelle o alla mia figura. Gli auguro di continuare la loro brillante attività di consiglieri, ha scritto il comico, che proprio ieri con un videomessaggio aveva minacciato di espellere chi lo aveva criticato per la poca trasparenza con la quale si erano svolte le parlamentarie. Oggi dalle parole Grillo è dunque passato ai fatti. Immediata la replica della Salsi: il dissenso non è concepito all'interno del movimento. Paradossalmente negli altri partiti c'è più possibilità di controllare chi è al vertice rispetto a noi, ha commentato la consigliera regionale Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E sul fronte internazionale Angela Merkel ribadisce la sua posizione contro la ridiscesa in campo di Silvio Berlusconi. Per il secondo giorno consecutivo la cancelliera tedesca ha sottolineato che gli italiani sceglieranno in modo tale da garantire che l'Italia resti sul cammino giusto. Lo ha fatto questa mattina nel corso di una conferenza stampa a Berlino, in cui ha affermato anche di appoggiare le riforme lanciate dal governo Monti, che hanno consentito un ritorno della fiducia degli investitori nell'Italia. E in attesa questa sera dell'Eurogruppo, a parlare dell'Italia è stato anche il premier greco questa mattina. Allora andiamo ad Atene da Valeria De Rosa. Buongiorno Anna, a te, i nostri ascoltatori. Sì, il premier Antonis Samaras questa mattina, incontrando una delegazione di giornalisti europei, proprio a noi italiani, ha chiesto cosa stava succedendo in Italia. Spero che le cose nel paese vadano bene, ha detto Samaras, perché se noi che siamo la Grecia e valiamo il 2,5% del PIL europeo stiamo creando tutti questi problemi, la stabilità della Spagna e dell'Italia è fondamentale per l'Unione. Samaras si è anche augurato di vedere Monti prossimamente, ma poi ha aggiunto: con tutta la turbolenza di questi giorni non so se questo succederà. Per quel che riguarda la Grecia, possiamo dire che chiuso il buyback ieri, è stato un buyback che comunque ha centrato l'obiettivo, ma ha comportato un esborso superiore a quello che era stato previsto anche e soprattutto dal Fondo Monetario Internazionale. Questo vuol dire che potrebbe profilarsi qualche problema in sede di Eurogruppo. Ricordiamo che l'Eurogruppo deve sbloccare tecnicamente i 44 miliardi che la Grecia aspetta, e Samaras ha anche detto che per la Grecia domani, quindi quando questo succederà, quando si augurano tutti che questo sblocco avvenga, sarà un giorno fondamentale, un giorno determinante per la Grecia, perché questi soldi servono per la liquidità del paese, quindi per ricapitalizzare le banche, per far sì che lo Stato possa pagare tutti quelli che sono i suoi creditori e per allontanare definitivamente il rischio e anche la paura che la Grecia possa tornare alla dracma. E da Atene è tutto. Il punto di Stefano Folli. La linea anti-europea di Berlusconi è il fatto centrale di questa campagna elettorale all'inizio. È un fatto drammatico perché indica l'estrema determinazione dell'uomo, ma anche la sua perdita di lucidità. Di fatto oggi Berlusconi è ai margini del Partito Popolare Europeo, che un tempo egli considerava il suo fiore all'occhiello. Anche le gerarchie ecclesiastiche lo hanno abbandonato dopo essere state un pilastro dei suoi governi per lunghi anni. Tutto questo determina due conseguenze. Da un lato una situazione di forte tensione che accompagnerà la campagna elettorale, di cui Berlusconi è sì il protagonista, ma in una chiave parecchio destabilizzante. Sarà in grado di reggerla? Secondo, cresce lo spazio di Mario Monti. Che il premier decida di partecipare in modo attivo alle elezioni oppure no, egli è già diventato il punto di riferimento di una vasta area moderata. È l'area che è quasi sempre stata maggioritaria nel paese e che oggi, disorientata e incerta, guarda a lui con una certa speranza. Anche Bersani guarda quest'area, ma l'alleanza con Vendola gli impedisce di rappresentarla pienamente. E chiudiamo così la pagina, l'ampia pagina politica internazionale. Andiamo invece a Taranto, dove ci sono oltre 1400 posti di lavoro a rischio all'Ilva. Il governo interviene ancora. L'Ilva è autorizzata alla produzione e alla commercializzazione dei prodotti realizzati antecedente all'entrata in vigore del decreto legge. Questo è il testo dell'emendamento che il governo presenta al decreto salva Taranto. Il ministro Clini si sta recando alla Camera. Tutto questo dopo il no al dissequestro da parte della magistratura. Cosimo Panarelli della CISL al microfono allora di Katia Caramelli. Questa ulteriore negazione non aiuta a rimettere nella giusta careggiata lo stabilimento per il suo risanamento, perché da un lato ci siamo trovati con il dissequestro delle aree interessate e quindi per l'inizio della messa a norma degli impianti, dall'altro lato non si può lavorare perché i prodotti finiti che stanno all'interno dei magazzini non ci consentono più di poter continuare a lavorare perché non ci sono più spazi, quindi questa cosa non aiuta alla messa alla normalità tra virgolette dello stabilimento, che da un lato si fanno gli interventi e dall'altro lato si continua a produrre per mantenere quel minimo di mercato. Il ministro Clini ha annunciato un provvedimento ad hoc per sanare anche questa situazione. Noi ci auguriamo, come dire, che alla fine il buonsenso da parte di tutti, come dire, venga fuori, perché non serve continuare con questo stillicidio così pesante. I lavoratori sono enormemente preoccupati e poi questa preoccupazione sotto le festività natalizie io credo che non aiuta nessuno. La storia è nata perché lo stabilimento non poteva più continuare a produrre in queste condizioni, bisognava metterlo a norma. Oggi ci sono gli strumenti duri, pesanti, posti dal governo per la messa a norma, sfidiamo l'azienda a fare esattamente quello che dovrà fare. Io questo è quello che mi aspetto nei prossimi giorni, cioè mettere in condizione l'azienda di poterla sfidare a fare gli investimenti, come dire, dovuti per la messa a norma degli impianti. Andiamo anche a Ciampino, crollo di calcinacci in una scuola materna e una bimba è rimasta ferita. Maria Pira Ceci. Sì, poco fa la telefonata del ministro della pubblica istruzione al dirigente scolastico. Francesco Profumo si è detto molto dispiaciuto per quanto accaduto e ha assicurato che seguirà gli sviluppi. Lo ricordiamo, questa mattina alle 9 il crollo alla scuola materna Martin Luther King di Ciampino, vicino Roma, come ci ha raccontato il capoturno dei vigili del fuoco Roberto Marconi, che sentiremo fra un attimo. Per la bambina un'escoriazione alla fronte, per la maestra un malore da shock, tant'è che entrambe sono finite in ospedale. E i bambini tutti a casa, almeno fino a domani. Ora i tecnici stanno facendo i sopralluoghi per capire cosa sia successo e se si tratti di un episodio legato a quello del 6 novembre. La scuola venne infatti chiusa per infiltrazioni d'acqua nel solaio dovute alla rottura di un tubo. Vennero poi effettuati i lavori di riparazione e consolidamento, ma potrebbe non essere stato sufficiente. Ma sentiamo cosa ci ha raccontato il capoturno dei Vigili del Fuoco, Roberto Marconi. Sono venuti giù dei laterizi da questo soffitto, e praticamente delle pignatte così chiamate, e praticamente hanno colpito, sono cadute su un controsoffitto 50x50. Questo pannello è venuto giù e ha colpito una bambina e la maestra. Ecco, in che condizioni sono? Questo non lo sappiamo, perché noi quando siamo intervenuti erano già state trasportate presso l'ospedale, al pronto soccorso, all'ospedale di Marino, l'ospedale San Giuseppe. Che tipo di verifica avete fatto una volta arrivato lì? Stanno effettuando la verifica i funzionari. Il nostro tecnico sta facendo una verifica della struttura per verificare un attimo il perché sono caduti questi pezzi. Ecco, gli altri bambini sono stati fatti uscire dalla scuola? Sì, sono stati fatti uscire tutti. Quindi la scuola è stata, come dire, evacuata? Diciamo, è stata fatta, per il momento è stata resa inagibile, diciamo, l'aula, diciamo, interessata. Adesso effettueranno tutta una verifica tecnica e successivamente poi faranno un fonogramma alla prefettura. E grazie allora a Maria Pira Ceci. Ed è caccia all'uomo invece tra Campania e Basilicata. Quattro detenuti questa mattina ad Avellino sono evasi. Lo hanno catturato a Francavilla in Sinni, in provincia di Potenza, uno dei quattro evasi dal carcere di Bellizzi Irpino, in provincia di Avellino. L'uomo era su un'auto che è stata bloccata dai carabinieri del comando provinciale di Potenza e che ora hanno concentrato le ricerche sugli altri tre evasi in tutta la Val d'Agri. Alle battute partecipano anche unità cinofile dell'arma e un elicottero. I tre ricercati sono Cristiano Valanzano, nato a Vico Equense, in provincia di Napoli, che doveva scontare una pena fino al 2028, Salvatore Castiglione, nato a Crotone, che doveva restare in galera fino al 2036 e Fabio Pignataro, nato a Mesagne, in provincia di Brindisi, che doveva restare in carcere fino al 2025. Una fuga di gruppo, quella dei quattro detenuti, è avvenuta nella notte o alle prime ore del mattino, ma le notizie sono ancora frammentarie e sembra con il classico metodo del buco, pare dal bagno della cella togliendo un intero blocco di mattoncini. Poi si sono calati con delle lenzuola annodate. Infine hanno scavalcato il muro di cinta aiutandosi con un contenitore dell'immondizia su cui hanno posto delle pedane. Sono riusciti a eludere la sorveglianza e tutti i controlli. La scoperta della fuga solo al momento della conta, quando i quattro non erano già più in cella. Adriana Fracchia, Radio 24, Il Sole 24 Ore. 95% di adesione, è alto il numero dei benzinai che hanno aderito alla serrata, pompe chiuse, lo ricordiamo, fino alle 7 di venerdì mattina. E in Lombardia continua anche il calvario dei pendolari che utilizzano i treni delle Trenord. Dopo due giorni di forti ritardi e cancellazioni causate dal nuovo sistema informatizzato di gestione dei turni del personale, questa mattina ritardi medi di circa 20 minuti. Cristina Carpinelli ha raccolto allora qualche parere. Circa 25 minuti di ritardo, problema di un software installato tre giorni fa e il problema persiste, probabilmente non è possibile risolverlo e quindi noi dobbiamo abituarci ai ritardi. Oggi un pochino meglio, dai, rispetto agli altri giorni sembra che si sia un po' risistemata la situazione. Vi avevano avvertito quando c'è stato il problema o no? No, abbiamo scoperto arrivando in stazione. Ogni giorno è un terno all'otto, non cambia nulla, il problema rimane sempre dell'utente del treno. Si sa che ora si esce da casa e non si sa che ora si rientra. Riprendiamo invece dalla crisi internazionale che arriva dall'Asia, perché la Corea del Nord ha lanciato un razzo e messo in orbita un satellite, malgrado le pressioni della comunità internazionale, completando per la prima volta un'operazione del genere con successo e ovviamente sono state immediate le condanne internazionali. Gigi Donnelli. Condanne internazionali più che mai. Potremmo partire dall'UE che attraverso l'altro rappresentante per la politica estera, Catherine Ashton, ha minacciato nuove sanzioni. D'altra parte, è bene ricordarlo subito, la Corea del Nord è il paese più sanzionato del mondo e di certo questo non ha impedito un percorso che ormai va avanti da parecchi anni. Ecco, forse vale la pena allora segnalare invece la posizione assunta da Pechino, una Pechino che si dichiara molto dispiaciuta per quanto accaduto, un'espressione che dal punto di vista cinese equivale già a uno spostamento in avanti, a una forzatura. D'altra parte gli Stati Uniti, basta guardare il titolo del New York Times, lancio coreano un atto di sfida. Perché un atto di sfida? In questo caso si parla di un lancio di un satellite per l'osservazione della Terra, quindi qualcosa che normalmente gira sulle nostre teste, peccato che per portarlo in orbita ci voglia un razzo a terzo stadio. Gli americani sono stati chiari su questo punto, avevano già detto sei mesi fa che la Corea del Nord in quattro anni sarebbe stata in grado di colpire gli Stati Uniti, eventualmente in questo caso il carico potrebbe non essere un satellite ma una testata nucleare. E grazie a Gigi Donnelli. Restiamo all'estero perché in Russia questa mattina c'è stato il discorso alla nazione di Putin. Una Russia influente nel mondo, prospera, attenta a salvaguardare la propria identità e ad alimentare le energie interne. La Russia che vuole Vladimir Putin è stata disegnata dal presidente russo nel discorso alla nazione pronunciato nella fastosa sala di San Giorgio al Cremlino. Un'ora e mezza per avvertire che Mosca non tollera imposizioni dall'esterno sulla scelta di una democrazia alla russa, basata sulle tradizioni locali e non su standard imposti da fuori. A un anno dalle prime proteste contro il regime, Putin ha confermato la chiusura nei confronti dell'opposizione che accusa di essere finanziata da stranieri. Non ha mancato di fare promesse, come quella di raggiungere un tasso di crescita tra il 5 e il 6% e di creare entro il 2020 25 milioni di posti di lavoro. Tra le priorità del paese è lo sviluppo delle regioni rivolte all'estremo oriente e la lotta alla fuga di capitali russi nei paradisi offshore. Ma non dobbiamo solo svilupparci, ha detto Putin, dobbiamo anche mantenere la nostra identità nazionale e spirituale, non perderci come nazione, essere e rimanere la Russia. Antonella Scott, Radio 24, Sole 24 Ore. E restiamo a guardare all'estero perché parliamo spesso di evasione fiscale, che non è solo un male di casa nostra. Evasori di tutto il mondo, anzi di tutta Europa, unitevi e benvenuti al nord, oppure benvenuti in Svizzera, eterno paradiso di tutti quei paperoni che fuggono dal paese d'origine per non pagare le tasse. Questa volta non stiamo parlando di noi italiani, sempre dotati nella specialità del salto d'imposta. No, questa volta i francesi, forse a causa della crisi, ci bagnano il naso. Pochi giorni fa Gérard Depardieu ha abbandonato la Francia per stabilirsi in Belgio, ad appena un chilometro dalla frontiera. Anche Santiago Calatrava, il prestigioso architetto, ha trasferito la sua società a Zurigo. I commercialisti la chiamano ottimizzazione fiscale. Noi comuni mortali non pagare le tasse, ma così volete mettere è molto più charmante, anche se dà un certo fastidio, in un momento in cui tutti tirano la cinghia, sentire che uno come Depardieu, dal giro di vita sempre più extra large, fugga nel disprezzato Belgio per diventare ancora più ricco. Ma non c'è solo Depardieu, ricordiamo Zinedine Zidane, Alain Prost, Alain Delon. Tutti bravi, tutti belli, tutti in pole position nel tagliare la corda per non tagliare le spese. Dario Ceccarelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Raggiunto e superato il milione di follower per il Papa su Twitter, oggi il debutto con il pontefice che ha inviato personalmente il primo intervento, per poi per gli altri lo faranno i suoi collaboratori. Cari amici, è con gioia che mi unisco a voi, così in inglese il primo intervento. Sono Facebook, YouTube e Libero le parole più cercate in assoluto su Google, ma tra i termini emergenti nel 2012 in Italia spiccano quelli economici. Il terremoto in Emilia e la morte di Lucio Dalla sono le parole più cercate su Google in questo 2012, ma c'è anche il calcolo dell'IMU. Le liste del motore di ricerca forniscono un quadro delle curiosità, urgenze e preoccupazioni degli italiani nel 2012. L'IMU è tra i primi 10, al sesto posto, in mezzo a Costa Concordia la showgirl Sara Tommasi. L'economia conquista posizioni, oltre all'IMU ci sono l'onnipresente spread e la spending review. L'occupazione è una priorità, la parola cerco, la prima associazione lavoro, soltanto seconda, cerco compagna. Tra gli emergenti cosa significa non poteva mancare Ciusi, reso celebre dal ministro Fornero che lo ha usato nel consigliare ai giovani di non essere troppo esigenti nel cercare il primo impiego. Qualche nota di colore, infine, la band preferita sono i Coldplay, il libro Le 50 sfumature di grigio e la ricetta La crostata di marmellata. Luca Salvioli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E allora con la crostata di marmellata davvero ci fermiamo qui. Ancora una buona giornata da Anna Migliorati, in regia Gianmarco Ferronato. GR24, vi ricordo, torna alle 14. GR24, Il Sole 24 Ore. Direttore Fabio Tamburini. GR Spettacoli. Buongiorno da Marta Cagnola. Apriamo questa edizione con la notizia della morte del musicista e compositore indiano Ravi Shankar. Aveva 92 anni, così lo ricorda il critico Enzo Gentile al microfono di Adriana Fracchia. Ravi Shankar tutti lo ricordano perché è stato un sodale e un fiancheggiatore dei Beatles, i quali hanno recuperato moltissimo come ispirazione, come influenza e come sonorità dalla musica indiana, soprattutto nella seconda metà degli anni 60. Specificamente George Harrison, ma a parte questo poi Ravi Shankar aveva attraversato anche nei decenni successivi la musica occidentale ed era sicuramente l'ambasciatore principale di quel mondo, di quell'area culturale, in prima parte perché era una figura rispettatissima in patria, un vero e proprio monumento vivente, era stato anche un rappresentante politico del Parlamento indiano, ma soprattutto perché con il suo insegnamento e la sua arte era comunque entrato in empatia con la musica, diciamo, impropriamente definita pop, rock o più commerciale, senza contaminarsi, ma contaminandola moltissimo. Ce lo ricordiamo anche presente al Festival di Woodstock o, in maniera molto più preponderante e significativa, al concerto del Bangladesh. Oggi al Courmayeur Noirin Festival è il giorno del vincitore del Raymond Chandler Award, lo scrittore americano Don Winslow, autore di bestseller adrenalinici di cui Oliver Stone ha appena adattato Le Belve. Per gli italiani invece è il giorno del film di Tony D'Angelo, L'innocenza di Clara, ambientato tra le cave di marmo di Carrara e i boschi della Lunigiana. È la storia di due cavatori e una donna il cui arrivo sconvolge la piccola comunità in cui vivono. Tony D'Angelo. È un film sulla banalità del male. Il male è banale, il male è ovunque, no? Il male è tra di noi. Ma l'Italia è questa. Ma non solo l'Italia, probabilmente anche gli altri paesi. Io sono italiano, il racconto, cerco di raccontare il mio paese. E poi in provincia sì, lì si enfatizza tutto, no? Perché in provincia è tutto molto sottile, cioè sono degli equilibri veramente che si portano per anni, odi e rancori non risolti, eccetera, eccetera. Per cui, ecco, appunto, basta veramente un nuovo arrivo in un mondo fatto di mine ben messe, dove tutti hanno imparato a schivare, che appunto fa succedere un macello, come dire. Al Noir ha presentato anche un documentario, The Man Nobody Knew, l'uomo che nessuno conosceva. Carl Colby racconta la storia di suo padre, William Colby, direttore della CIA negli anni della guerra al Vietnam. I was afraid people weren't going to be telling me the truth. I thought they would either tell me some simplistic story about my father. Avevo paura che la gente non mi avrebbe mai raccontato la verità, ha spiegato Colby. Credevo che mi avrebbero dato le spiegazioni ufficiali degli eventi o qualche aneddoto semplicistico su di lui. Sono stato sorpreso dalla sincerità brutale che le persone hanno avuto con me parlando di mio padre. Forse tutti avevano la sensazione di parlare in realtà con il loro figlio. E per il GR Spettacoli è tutto. Da Marta Cagnola, ancora l'augurio di una buona giornata.